a big up on it, dude. Out of Italy, I see like a London. Kill them. Allego this ya one, dammi due parole, questo è San Leone. Esco già di casa, che sono le nove. Intanto il sole muore, dopo un giorno al mare. Questa notte devo andare a lavorare. E non c'ho voglia mica, qui c'è sempre vita. In giro nei locali, conosci qualche tipa. La storia è infinita, un viaggio inesistente. Vieni qui l'estate, conosci troppa gente. Le trovi tutte in fila, al mare alla deriva. In giro per la piazza, o da Caterina. Non importa dove abiti, al centro della terra. Io non me ne andrò neanche per la guerra. Sale ore di my way con i bro e con i miei, come il sole fa con me. Io riscaldo lei, you know. Sale ore a un hour and now. One more set. Sale ore di my way con i bro e con i miei, come il sole fa con me. Io riscaldo lei, you know. Sale ore a un hour and now. One more set. Si trova l'Agrigento più bella fra i mortali. Questa è San Leone, lei non appari. Parlo del mio paese, pretese, trovi tante facce, dal marocchino al cinese, paese di tanti culti e di tante tradizioni, ma anche San Leone ha le sue distrazioni, qui non manca niente, dal kebab alla pizza, c'è pure il paninaro che vende la salsiccia, la sera ti ritrovi a bere da pisciotto e speri che qualcuno in auto non fa il botto, a San Leone puoi vivere anche tu, scendi giù con noi, sei il benvenuto sai. San Leone in my way, con i bro e con i miei, come il sole fa con me, io riscaldo lei. Leone, oh, now and now. One more set. Da Leone, this my way. Con i bro e con i miei, come il sole fa con me. Io riscaldo lei, no. Da Leone, no, now and now. One more set. Esco di casa preso male, si becca qualche amico per parlare del che fare, che viene spesso a mancare. Mi voglio ubriacare, attitudine Jason Rader, non ce n'è vice. Dammi un altro Jägermeister, sto cervello che sballa. Domani sarà peggio, minchia di cavalla. Perciò ma che maneggio? Ogni flash ti aspetta con troppa fretta. Il panino da concetta che chiede vendetta. La solita rissa che ormai è un obbligo scontato. E non batti ciglia perché ci sei pure abituato. 13 anni contate che sembrano porno star. Più curiosità di un bazar, tutti a bere al bar. Tante cazzate e prese per il culo. Vedere tag di gelo in piano. Che pompa ne pare duro, ma conoscerà la mia gente, sto suono che picchia. Oppure addio e stammi bene. Testa di minchia.